Questa Grecia è il color del mio cuore. Dove guardi è sepolta una gioia, come dentro del cielo stellare, e dentro me movimento e quiete bella, del tuo abbandono, o dolce vita, sollevasti lo sguardo, t'alzavi nelle tue forme svelte e serenata, divinamente il volto tuo, celeste, soffuso ancora dell'incanto fermo, da che io ti destai, chi ha mai guardato in quest'occhio sereno, dolci schiuse le labbra, che può dire? Diotima, celeste, buonanotte occhi d'angelo, che mai sono millenni di pensieri, di fronte a un unico istante d'amore, la natura è incompleta, non è più la divina, perfetta natura. Se mai tu le venissi a mancare, sulle stelle lassù vanisce l'eco della lotta, è detto che la pace beata si ricerca qua giù, in nessun luogo io so d'oltre ho preso la via più breve, mi fu davanti, lei vidi e sentì sereno il cielo, e tra i gemiti del caos m'apparve Urania. Oh, io sarei diventato accanto a lei, felice, un uomo superiore accanto a lei, ma tutto è naufragato, non so che fare di me e delle altre cose. Vi fosse qualcosa da fare per me al mondo, un lavoro, una guerra per me. Solo a tratti so dire di lei, un dire breve, devo scordarmi della sua interezza, se voglio dirla, fingere. Che vissuta in tempi andati, che io ne apprenda qualcosa per averne sentito parlare, che la sua immagine non mi sorprenda, e io vanisca nel dolore e nell'estasi, se non mi è dato morire una morte sorridente. Ed è vano, e non posso mentirmi, fugge, coi miei pensieri ovunque, in alto dei cieli, e nell'abisso giù, prima e dopo degli evi, anche se cado in braccio all'universo spirito arcano, in seno dell'oceano senza fondo. Allora mi ritrovano i dolci spaventi, i dolci spaventi. Dio Tima. Dio Tima, non fa male, veglia sulla tua pace, non lasciare sfiorire la tua rosa, o dolce vita, la mia gioia è dovunque ti porti, in te il tuo libero cielo sereno. Non volerti misera non deve specchiarsi in te la povertà dell'amore.